Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È tempo che racconto del mio viaggio in treno, del mio salire e scendere, del mio osservare, del mio parlare, del mio ascoltare. Non ho mai parlato del mio tempo passato nei vagoni letto, nei posti delle cuccette. Sì, perché onestamente non ci vado molto volentieri. Trovo la promiscuità forzata del viaggiare in treno senza scarpe, con l'odore dei piedi del vicino vicino alla nostra faccia, non sia proprio il massimo, ma evidentemente non tutti la pensano così. Chi è abituato a viaggiare con quello spirito antico d'avventura magari anche a questo sa adattarsi, o sicuramente questo per lui non crea problema, come quella signora, antica viaggiatrice, sicura viaggiatrice, signora capace di stringere rapporti utilissimi in treno. Utili soprattutto per capire come si può viaggiare meglio. Sono partita dal nord e mi accostavo ad andare in Sicilia. Ho preso il vagone letto, era una cabina a due letti, e nella mia stessa cabina c'era una signora siciliana. Ma eravate già in pigiama a letto oppure all'inizio, prima ancora di aprire i lettini? No, fin tanto che preparavamo a prendere dimora nel nostro letto, poi è proseguito il racconto. Certo, è imbarazzante dormire con degli sconosciuti, mai visti per la prima volta. Fortunatamente eravamo entrambi donne, quindi gli uomini non oso nemmeno pensare l'imbarazzo. Beh, ma all'epoca era una cabina a due letti, quindi più comoda, non quelle a quattro, sente l'odore dei piedi, sì, quelli che stanno sotto. Esatto. No, questa era a due letti. E questa signora, quando arrivava a Palermo, essendo lei, diciamo, un po' chiara di capelli, in famiglia era considerata in maniera di paternità sospetta. Ecco, esatto. E quindi il padre guardava la madre con sospetto: con chi hai fatto questa figlia? No, siccome la mamma era di origine austriaca, per cui era chiaro che c'era... Aveva biondi nel DNA di sicuro. Ecco, sì, appunto. E mi raccontava la storia che a questa mamma austriaca, quando andava giù, gli era permesso di sedersi in tavola con i maschi, che invece non era permesso alle zie. E quindi la tavolata dei maschi, che naturalmente è invalicabile per le femmine di famiglia, era aperta alla femmina austriaca, perché era talmente diversa, poteva stare a tavola, sì, con era maschi. Talmente diversa, rappresentava l'esotico, diciamo, e quindi gli era permesso quello che alle altre, cioè immagino con che occhi la guardavano le altre baffute parenti, sì, esatto, siciliane, esatto. Ecco. E va bene, fra le varie cose, poi mi ha insegnato come farsi il bidet in treno. Perché non avevate un bidet a disposizione dentro quello scompartimento? Perché non c'era il bidet a disposizione. Ma nel senso, ha detto: adesso ti faccio vedere come si fa il bidet. Come siete entrati nell'argomento? Un argomento abbastanza personale. No, perché abbiamo detto, cioè, c'era solo un piccolissimo lavandino, no? E quindi abbiamo detto come ci laviamo, certo. Ecco, e dobbiamo andare in toilette e così. E lei vedo che tira fuori dalla borsetta un bicchiere di quelli pieghevoli che si portavano una volta nei campeggi. Quelli da Boy Scout, si aprono, ecco, esatto. A soffietto. A soffietto. E io dico: ma scusa, cosa ne fai di questo bicchiere? Dice: adesso ti insegno come si deve fare il bidet. E dice... io l'ho guardata un po'. Ma in quel lavandino piccolino dello scompartimento? No, lo si faceva nella toilette. Ah, nella toilette. Ecco, e quindi tu praticamente ti appoggi come se dovessi sederti sull'asse, no, del vaso. prima riempi questo bicchiere d'acqua e fai scorrere l'acqua. Con un po' di pazienza, in 7-8 bicchierate si fa un bidet praticamente. praticamente. Beh, sempre meglio che niente, certo. Ancora non avevano inventato le salviettine umidificate. Sì, all'epoca non esistevano le salviettine. Quindi o si andava a bicchierate... È obsoleta la cosa. Se no ci si lavava secco, certo. Ecco, sì. Lei ne ha fatto tesoro nella vita di questo consiglio di igiene personale? Sì, sì, mi è successo. Quindi, e anche lei si è dotata di bicchiere? Di essere in un paese straniero dove esattamente non c'era il bidet e ho utilizzato la tecnica. Ma aveva il bicchiere pieghevole, no? No, un bicchiere di carta. Con un normale bicchiere? Beh, è stato utile. Un normale bicchiere. E lei aveva quello pieghevole perché chiaramente era da viaggio. Beh, perché lo faceva spesso, era più abituato. Grazie, buon viaggio, è stato utilissimo. Un grande consiglio, grazie. Probabilmente il viaggiatore più giovane, il viaggiatore più legato ai ritmi contemporanei delle comunicazioni digitali non ha questi problemi. Non deve condividere con un compagno di viaggio gli escamotage per provvedere alla sua igiene personale. Probabilmente il viaggiatore più giovane non conosce le ritualità familiari legate a tradizioni antichissime. Io vengo dalla terra, l'ho detto più volte, la terra che riconosco guardando fuori del finestrino, la vedo nel suo mutare stagionale e mi rendo conto del grande privilegio di accorgersi di questo quando si viaggia in treno. Le città sono sempre uguali. Le città si riconoscono nel passare delle stagioni soltanto dai tombini intasati, soltanto dal traffico che aumenta, soltanto dalle cronache per poveri vecchietti che rimangono soffocati in casa perché il caldo impedisce loro di vivere una vita decente. Beh, ai tempi della mia campagna i rituali familiari erano legati a tradizioni che probabilmente andavano oltre la memoria nostra, dei nostri avi, dei nostri nonni. Erano memorie che erano legate ad antichi riti che tenevano l'uomo molto legato alla terra. Uno di questi io l'ho tenuto alto finché ho potuto, e ho potuto per un certo periodo della mia vita. Consisteva nel rendere gloria alla sposa il giorno del matrimonio. Era un compito che spettava ai maschi di famiglia e io orgogliosamente ho tenuto alto la bandiera di maschio di famiglia finché ho potuto. Ogni banchetto di matrimonio non era concepibile senza il finale offertorio del piatto alla sposa. Quanti ne ho fatti e quanti ne ho visti fare, nemmeno lo ricordo. La tradizione era sempre rispettata. Di solito erano gli amici dello sposo che, dopo il taglio della torta, si introducevano di soppiato nella cucina del ristorante per l'allestimento. Era facilissimo trovare la complicità di sguatteri e vecchie pelapatate. A seconda di quello che offriva la stagione, si adagiava uno zucchino in un letto di insalata ricciuta. La composizione si completava con due mandarini, patate novelle, mele e annurche. I più estremi versavano salsa di pomodoro all'estremità dello zucchino per simboleggiare una poco possibile deflorazione. Il piatto, coperto con un tovagliolo, veniva portato in sala da un cameriere che fingeva fosse una pietanza speciale offerta alla sposa. Quella, che aveva capito al volo di cosa si trattasse, fingeva riluttanza allo scoperchiamento. Si alzavano urla di incitamento da parte degli invitati per incoraggiarla, fino a che si decideva a sollevarne un lembo e sgomenta esplodeva nel rossore tra lazzi e battimano e correva a rifugiarsi tra le braccia dello sposo, il quale approfittava dell'istante per accogliere orgoglioso un fuggevole momento di gloria virile. Sarebbe stato lui a compiere presto lo sfracello che quella zucchina intinta nel pomì minacciosamente presagiva. Io l'ultimo piatto della mia vita lo feci negli anni 90, al matrimonio di mia cugina altolocata, nel ricevimento in casa con ospiti di grande rispetto. Per sbeffeggiare lo sposo usai una carotina stortignaccola e mezza ammosciata. Allo scoperchiamento del piatto il gelo scese nel salone a vito. Fui invitato da una zia a sparire e lo feci per sempre. Why do you let me stay here all by myself? Why don't you come and play here? I'm just sitting on the shelf. Il treno va. Nell'ultima stazione, una piccola stazione, sono salite sul treno molte ragazze africane. Sono salite, come spesso accade, nelle piccole stazioni, ma anche nelle grandi stazioni, che salgano e scendono puntualmente, in gruppi, per andare a lavorare. Improvvisamente sento un clamore che viene proprio da quello scompartimento. Mi avvicino, un signore molto arrabbiato. Non tollera le nuove passeggere. No, la signora mi sta rompendo le palle, questa donna qua! Io vuoi cominciare a parlare, stanca le palle, stanca! Stanca! Io c'ho il diritto di parlare dove mi vuoi e come mi pare, hai capito? Ti pigliassi una paralisi? Non la paralisi ti viene a te! Io ti batto le corna, a te ti viene le corna, eh! Io ti mando una sigaretta e ti arrivo, eh! È un battibecco interculturale. A un certo punto si passa dalle minacce alle maledizioni. Ognuno lancia quelle del suo paese. Il signore maledice, fa le corna. La ragazza africana lancia i suoi scongiuri. Non so alla fine chi avrà la meglio, chi riuscirà a sconfiggere l'avversario. Io parli quanto mi pare. No, te non parli. Hai capito? Te ne vai da un'altra parte a parlare. Se tu non vuoi sentire le voce di nessuno, quello sei in casa, in casa tua, sei in casa mia. Ah. Io ho fatto 30 mesi militare. Parliamo mortale contro i terroristi. A me mi cagli il cazzo, me. A cosa andare in galera, eh? Non mi rompere i coglioni. Guarda, io non posso prendere tempo a parlare con te. Io mi parlo per il coglione alla gente. Ma voi... Mischiata tra le ragazze, osservava la scena un'altra ragazza, vestita di leopardo, con le scarpe zebrate, osservava e prendeva appunti, perché lei, Genevieve, è un'antropologa e di questo si occupa. Da dove vieni? Allora, io sto venendo dalla Calabria e sto andando a Mantova. Sto emigrando dopo 32 anni di Calabria. Vado al nord. Ma cosa facevi? Io insegnavo antropologia culturale. Io sono un'antropologa, carissimo. Io sono un'antropologa e giornalista. Dove sei nata? Dove sei nata? Io sono nata nel Camerun, un bellissimo paese nel centro dell'Africa, 56 anni fa. Senti, quando viaggi in treno, cosa ti dice la gente? Ti ferma, ti attacca a discorso, ti scambia per le tante ragazze africane che, ahimè, viaggiano avanti e indietro lungo i treni regionali? Eh sì, ahimè, purtroppo quando prendo questi treni locali mi scambiano, chiedono quanto vuoi, mi parlano tutti con i verbi all'infinito e poi io rigorosamente parlo e rispondo in buon italiano e dico, anche quando dichiaro di non essere, di non fare quel mestiere là, e cioè la prostituta, che poi da 10 ore l'incontro, non all'ora, da 10 ore, ma forse pure da 1000 euro, non è questo il problema, si attaccano, fanno, chissà perché queste precisazioni non passano, non l'ascoltano, no, sono nera, sono prostituta, quanto vuoi? Dico, io insomma non so parlare italiano, cose, e di solito quando dico, la tua mamma quanto vorrebbe? Cambiano subito posto. Cambiano argomento. Senti, tu adesso che vai a Mantova ti occuperai anche di queste ragazze sfortunate? Sì, almeno ci provo, però è una lotta, è come lottare contro dei giganti mostruosi, anzi veramente io alcune nel mio recente viaggio le ho pure incontrate, alcune che arrivano, molte che arrivano con quelle barche che vediamo affondare spesse volte e arrivano e sono merce destinate al consumo di sesso e non serve a niente cercare di dire loro come è già il loro presente ma sarà il loro futuro, non so come fare. Spiegami questo, che non lo capisco, come è impossibile spiegargli, tu che poi parli una lingua vicina alla loro, lingua nel senso... Certo, ma parliamo in inglese, sono ragazze, non sono così analfabete, molte sono state a scuola e ho avuto l'opportunità anche di sentire, però almeno per quel che mi riguarda io non so dove sbattere la testa, non lo so. Ma perché dici è inutile spiegargli, è inutile parlare, loro vengono già con questa idea? Inutile, perché loro, alcune arrivano con dei telefoni satellitari. Ora voi mi dovete dire, qualcuno mi dovrà dire come è possibile avere un telefono satellitare, partire dal paese di origine, sono per lo più ragazze della Nigeria, partire da lì, attraversare tutto il... cioè non hai da mangiare a casa tua, però ti puoi permettere un telefono satellitare, ma com'è questa cosa? Allora, banale deduzione mi fa pensare che c'è qualcuno o qualcuna, perché ci sono quelle... no, quelle madame, come si chiamano, che le tengono sott'occhio, le controllano. So anche di casi di ragazze che sono arrivate accolte, per come l'Europa ha stabilito e l'Italia sta cercando di fare, però puntualmente scappano per andare verso il loro destino, e cioè l'indomani le ritroviamo sul bordo della strada, pure inverno, mezze nude, per non dire anche quando totalmente nude. Ecco, perché loro producono molto denaro, diciamo, ognuna di queste ragazze produce molto denaro per chi la sfrutta. È un giro d'affare importantissimo. Allora noi, cioè io almeno da antropologa, ma anche giornalista, non riesco a capire, e anche da semplice cittadina, per carità, non riesco a capire come sia possibile che coloro che ci governano non abbiano intercettato questo. Io non faccio un discorso partitico, ma assolutamente, ma anche proprio umano, possibile che umanamente e politicamente non si sia riusciti ad intercettare questo gruppo di ragazze che vanno al macello? Però scusami, io vedo, parlando proprio dal punto di vista del treno, ci sono treni che la mattina sono pieni di ragazze africane e ritornano la sera pieni di ragazze africane. Nessuno si domanda dove vadano queste ragazze. E dove vanno? Dove vanno? Loro vanno nelle città dove devono offrire sesso, dove devono vendere sesso. Ti dico anche di più. Nessuno fino adesso sa che, per esempio, la piana di Sibari in Calabria è il più grande bordello a cielo aperto d'Europa. Sono cose note. Allora io mi chiedo, a chi fa comodo tutto questo, tutti questi miliardi? Che razza di mafia è? Vogliamo cominciare che si tratta di vera e propria associazione a delinquere di carattere mafioso? Perché nessuno parla? Poi non è che non si vedano, ne vedo tante, le vedo nel mio viaggiare continuo. Ma basta ovunque andare, le vedi la sera che partono, perché partono di sera. Si cambiano in treno, molte volte si cambiano in treno. Sì, si cambiano in treno, spesse volte non hanno neanche, diciamo, la decenza, se di decenza, ma per loro stesso dico, di andare nel bagno per cambiarsi. Si cambiano sui banchi, si mettono il trucco, ciglia finta, capelli finti, tutto finto. L'unica cosa che non è finta, e che tra poco diventerà finta pure, sarà la loro anima, perché il corpo oramai non ce l'hanno più. Non ce l'hanno, perché non è il loro corpo, è il corpo dell'Occidente, il corpo di tutti, dove tutti vanno ad abusare, a bere, a mangiare, a fare tutto. È un corpo morto, ucciso. Quello è il corpo di quelle ragazze. Ecco, quando ci parli, cosa ti dicono a te? Da donna quando a donna? Da donna a donna, alcune piangono, altre dicono, posso dire a tutti, venite a casa mia? Non lo posso dire, e le volte che ci ho provato mica ci vengono. E poi se venissero pure corro il rischio di essere arrabbiata, perché in casa mia troverebbero delle prostitute e magari finisco pure in carcere per induzione a prostituzione. Ma che scherziamo? Ma loro lo fanno per paura? Sono minacciate oppure... Sono minacciate. Sono consapevoli. Non lo so, perché magari lo facessero per loro stesse, allora si potrebbe parlare di... scelta consapevole di che cosa fare della propria vita. Sono ragazze per lo più soggiogate da altre stesse donne che sono passate di là, che poi diventano le loro aguzzine. Qual è la loro fine? Alla fine a un certo punto si esauriscono. Quando è che vengono buttate via come dei contenitori non più utilizzabili? Quando vengono buttate via? Quando avranno finito di rimborsare quei soldi che saranno 30.000 euro quando va benissimo, anzi quando è veramente la più brutta e la più grassoccia, la più bruttissima di tutte, oppure quando avranno finito di pagare i loro 50, 60, 70.000 euro. Ora il conto caro mio viaggiatore, si può ben presto fare, va bene? Perché a 10 euro, a 10 euro, come chiamiamola? Il rapporto, diciamo. Ecco, a 10 euro il rapporto, allora si fa la matematica, che non è un'opinione. Anni ci vogliono. Ecco, per raggiungere 70.000 euro, quanti 10 euro ci vorranno? Mai, non raggiungeranno mai questa cifra. E non raggiungeranno mai. Allora, quando saranno abbastanza vecchi che non potranno più fare di loro stesso andare sulla strada, cercheranno altre ragazze e continueranno a mandare queste altre ragazze a guadagnarci e prendere anche parte dei soldi per pagare i loro vecchi debiti. Capite che tipo di catena di maledetto sia? Si riesce a capire questo? Sì, adesso l'ho capito. Grazie. Possano altri viaggiatori capirlo. Grazie Genevieve, buon viaggio. Grazie, buon viaggio a te. Il treno va. A me piace viaggiare in treno. A me piace viaggiare su tutti i tipi di treno. Ci sono anche dei trenini che probabilmente per qualcuno non hanno nemmeno la dignità di essere considerati treni, ma vanno su rotaie. Sono i treni che uniscono le stazioni all'aeroporto. I treni dei non luoghi, i treni in cui la gente passa per passare da un viaggio all'altro. E in uno di questi treni ho incontrato una ragazza che mi spiega la filosofia del viaggiare sui piccoli treni che portano verso gli aerei. Mi capita spesso di prendere la linea del treno che va dalla stazione di Roma Termini all'aeroporto di Fiumicino. E è un treno, secondo me, molto particolare, una linea, una tratta molto particolare, perché accomuna persone che stanno partendo, magari stanno tornando a casa, o altri che semplicemente vanno come me per lavorare e poi per tornare la sera sempre a Roma. E, un giorno mi ha colpito molto un incontro che ho avuto con una signora peruviana, all'apparenza, insomma, dai tratti sicuramente non italiani, e seduta davanti a me. E, questa signora aveva una grande valigia al suo fianco. Era l'unico, penso, uno dei pochi giorni estivi in cui faceva veramente freddo. L'aria condizionata era molto forte, perciò ho cominciato a starnutire, insomma, non mi stavo sentendo molto bene. Questa signora a un certo punto mi ha guardata e ha tirato fuori da un piccolo sacchetto di un negozio uno scialle e me l'ha dato sorridendo. Non parlava molto molto bene italiano, però insomma mi ha fatto capire, ha detto: prendilo, mettitelo sulle spalle per coprirti. Questo gesto mi ha colpito particolarmente perché era ancora nuova, aveva l'etichetta attaccata, e gli ho detto: ma no, dai, non c'è bisogno. Lei fa: no, sì. E da lì poi è iniziata una piccola conversazione. Questo giacchetto era l'ultima cosa che probabilmente avrebbe comprato in Italia prima di tornare a casa dopo tanti anni. Ed era un giacchetto, uno scialle che aveva comprato per la sua bambina che non vedeva da oltre 5 anni. Questo piccolo incontro si è concluso con una sua frase che mi è rimasta impressa. Lei, con degli occhi pieni di felicità, mi ha detto: sai, questa è, sempre con un italiano un po' difficile, questa è la prima volta che scendo dove voglio scendere, dopo tanti anni qui in Italia che prendo il treno, per fermarmi in dei posti dove non ho nessuno che mi vuole bene, nessuno che mi conosce, ma che in qualche modo devo farlo per lavorare. Questa è la prima volta che, quando scenderò all'aeroporto, sarò contenta, perché andrò veramente, sarà la prima meta per andare dove voglio andare. E perciò molte volte, insomma, il treno uno guarda gli altri passeggeri e si domanda chi sono e dove vanno, ma a volte la vera domanda può essere se veramente quella è la fermata giusta per ciascuno, quella dove vorremmo scendere noi. E finalmente la passeggera che andavo cercando, in divisa, con lo stemma della compagnia di bandiera, con il trolley, con il cappelletto ancora in testa, con il soprabito, con il mezzo tacco da volo, è lei, l'assistente di volo, che sta tornando a casa, probabilmente da un lungo viaggio. Cosa ci fa una ragazza in divisa di assistente di volo dentro un treno? Perché non stai in aereo? Perché sto tornando a casa. Ma prendi il treno per tornare a casa? A volte sì, quando sono molto stanca, che torno dai voli lunghissimi, non mi va di guidare. Perché me lo chiede? No, non lo so, mi sembra strano, in divisa nel treno. No, no, è semplicemente... Mi vedo sempre in volo. Lo so, sono stanca, quindi mi riposo, leggo un libro e mi faccio venire a prendere da mio padre. Nemmeno li guardi i passeggeri del treno? No, basta. Ma sono simili a quelli dell'aereo? I nostri sono molto più nevrotici. Sì, li trovi più nevrotici? Molto, perché l'aereo li fa innervosire per questo effetto claustrofobico, per il fatto che sei in mezzo alle nuvole, spesso c'è la turbolenza, c'è il vuoto, quindi tutte le loro follie. Ah, influisce nell'equilibrio psichico il vuoto, la turbolenza e la quota, secondo te? Assolutamente, poi anche un pochino la pressurizzazione dal cervello, dopo un po' l'ossigeno manca. Quindi sei abituata a passeggeri schizzati? Molto schizzati. Quant'è che viaggi? 15 anni. 15 anni di volo? Sì. Ne hai viste? Troppe. Troppe in che senso? Che secondo me l'aereo è un po' un microcosmo in cui vengono fuori tutte queste fobie, tutti i tic, anche delle persone che apparentemente sembrano equilibrate. A un certo punto vanno fuori di testa. E la spugna assorbente siete voi assistenti di volo? E noi siamo, sì, questi cuscinetti massacrati che filtrano tutto, compresi i collaboratori esterni, insomma, degli altri settori. Li senti gli occhi piantati nel sedere quando cammini lungo il corridoio? Beh, a volte è proprio perforato. Perforato? Quindi si stabilisce questo rapporto quasi di considerare una geisha l'assistente di volo. È ancora così antiquato il passeggero d'aereo? Oddio, dipende. Abbiamo dei passeggeri di business abituatissimi che nemmeno ti guardano. Nemmeno ti vedono, sei trasparente. Oppure fanno finta perché hanno, insomma, no. Sono i migliori? No, perché poi sono molto esigenti, anche a volte magari hanno degli incarichi per cui dei personaggi un po' loschi, un po' brutti. Con le guardie del corpo? Anche, però non è detto che non guardino, fanno finta che non... E altri invece magari più genuini, che oppure un po' maniaci, come già mi è accaduto. Come vi sentite oggetto del desiderio? Questo è innegabile. Io mi dimentico perché comunque sono talmente... Beh, dopo 15 anni non ci faccio caso. No, non ci faccio caso, però visto e considerato che poi lo ammetto, oppure rimorchiato personaggi importanti, insomma. Ah, beh, quindi. Ma tu parti con l'idea del rimorchio in volo? Assolutamente no. Sono non sempre... è professionale? No, non l'ho mai fatto, mi è capitato una volta sola, ma ne valeva la pena, uno o due volte. Ma dove? Nella toilette? No, ma che no. No, non lo so. No, ma che no. Che ne so, assolutamente dove, no. Dove si consuma in aereo, non ho no, idea. No, no, ci siamo visti dopo. Ah, dopo, una cosa a lunga scadenza. Eh sì, una cosa figa, bella. Cioè, gentile, lungo tempo, cenette insieme, parlare vacanze vita. Insieme. Sì. I problemi. Ho seguito un tour. Ah. No, però sono molto professionale, molto, molto, molto. Non dai illusioni. Perché quando lavoro per me sono tutti uguali. E anzi, gli unici che non tratto nella stessa maniera sono i bambini che mi adorano. Spesso vengo chiamata dalle colleghe che lo sanno. Sai della tua collega americana che sta mettendo le foto nei social network di tutte le schifezze che fanno i passeggeri? Ti posso garantire che c'è di peggio. Non so, è capitato quella che fa sesso orale al ragazzo con tutti i passeggeri intorno che guardano. Ma di notte, durante la trasvolata Sì, ma si vede. Beh, spegni le luci sotto la coperta. Ci sono le luci di lettura, ci sono le luci vicine. E tutti guardavano. Vabbè, penso su uno spettacolino. Sì, mancava solo il biglietto. E facevano la ola, cosa facevano? Hanno fatto l'applauso. Ma in quel caso cosa fai? Te intervieni, che fai? È molto imbarazzante. E perché cosa dici? Smetta di farlo. No, magari accendi le luci, quindi questi smettono, fai qualcosa, lo dice al capocabina, oppure... E il capocabina che può fare? Magari si inventa qualcosa, che ne so, un messaggio delle vendite, quindi passa con le vendite di bordo e questo deve smettere per forza, insomma, di fare ste... Che li vendete? E un'altra volta mi è capitato un pedofilo addirittura. Un pedofilo in aereo? Sì, perché... Guarda, in uno di quei viaggi che vanno a posto? Ecco, allora, c'era questa ragazza... Un uomo a Bangkok, cos'è? No, era uno corto, c'era questa ragazza che era una minore non accompagnata, alta, carina, però piccola, ed era seduta vicino a questo tipo in prima classe oltretutto, e questo la importunava, nonostante l'intervento nostro, ha continuato ad importunarla e ha dovuto uscire il comandante della coppia. Imperterrito? Sì, e gli ha detto, guarda, se continua a trovare la polizia sotto bordo. E non l'avete denunciata? Penso che la segnalazione sia stata fatta, perché poi comunque questi passeggeri vengono segnalati. Quindi voi avete anche delle responsabilità grosse quando state in aereo. Sì, anche persone che si sentono male, bisogna decidere se fare l'extra scalo o meno. Io ho visto due persone in aereo. Una volta in Messico, atterrato in mezzo al deserto. A me non mi è mai capitato, però persone che si sentono male tante. E un paio di volte che hanno rischiato brutto. Cosa dici? C'è un medico a bordo? Sì. Siamo molto fortunati perché abbiamo sempre tanti medici sul lungo raggio. Ah sì, ma sul lungo raggio? Sì, però sul medio raggio è un po' più difficile soccorrere perché c'è poco tempo. Si avvisano i signori passeggeri che siamo in arrivo nella stazione di Roma Termini. We inform all the passengers that we are now approaching Roma Termini Station. Qualcuno è andato oltre i limiti, diciamo, del rapporto accettabile con te? Capita quello che ti tocca, con me mi vedono che ci provano. Ci provano, soprattutto i medio orientali. Considerano che sia un loro diritto fare. Sì, perché quelle compagnie loro si comportano come gli pare. A quelle col velo degli Emirati, quindi? No, dipende. Ci sono degli uomini, naturalmente internazionali, che sono molto educati, però ci sono anche le bestie, ma ci sono anche fra i nostri, che sono anche italiani. Com'è il rapporto con l'equipaggio, con il resto dei colleghi? Ma mediamente è buono, però qualche volta c'è un po' di maschilismo da parte dei... Beh, voi siete, diciamo, una compagnia di giro, scendete negli alberghi, negli scali, siete sempre gli stessi, io vedo spesso... No, no, cambiamo tanto. Infatti il bello di questo lavoro non avere una ripetitività. Se qualcuno ti sta sulle balle non lo devi rivedere per forza. Senti, ma tu è un mestiere a scadenza, a termine, quando diventerai vecchia e brutta che fai? No, non è a scadenza, perché adesso è diventato un lavoro assolutamente normale. Vabbè, oltre i 50 anni è difficile. No, adesso si va in pensione assolutamente come le altre categorie. Ma continuerai a volare? Quando avrai le rughe, no, le vene varie cose? No, no, smetterò almeno... Ti mettono a terra? Ma che no, cambio proprio lavoro. Passeresti ai treni? No. No, però mi piace viaggiare in treno tanto. Mi piace guardare il paesaggio, mi piace incontrare le persone con cui hai più tempo per chiacchierare. Come con te, insomma. The sun shines in our bed today. Bird sings at the windows. We both smile as young lovers. Even years talk a love. We feel happy together today. Feel happy together today. We took a plane to your road today. No matter the way, we feel happy together today. We feel happy together today. Il treno va. Non so perché, ma per la mia generazione ci sono stati pochissimi treni nei primi 15 anni di vita. Non ci si andava mai in treno, era rarissimo. Qualche gita, qualche volta con i genitori, con i nonni. Si viaggiava molto meno, il treno richiedeva molto più tempo. Oggi il treno è velocissimo. Uno dei ricordi legati al treno, alla mia più giovane età, fu quando una volta ci portarono i Salesiani in gita al Monte Subasio, partendo da Perugia. Sarà stata mezz'ora di treno, eppure... fu una giornata epica. Nessuna canzone può riassumere il sentire degli anni dell'adolescenza come Azzurro, che non a caso è per me l'unico ricordo assimilabile al cosmicamente epico 1968. Forse anche chi la scrisse passò spaventevoli domeniche nella solitudine caldiccia dell'oratorio, il solo luogo, assieme alle carceri, agli ospedali e ai cimiteri, in cui lo zenith assolato non è proprio sinonimo di gioia. Stringe la pancia il morso della nostalgia, Ma quella canzone conosce bene le disperazioni dell'adolescenza. Odore di piedi sudati, di polvere da campo di calcio, di tonaca nera da salesiano intrisa da generazioni di minestroni. La passeggiata lungo il cortile di graniglia a contare le inclusioni di ogni mattonella, tanto per passare il tempo, per fuggire al prete che voleva prenderti sotto braccio per frucugliarti sui cazzi tuoi. Il cielo era maledetto e sempre azzurro, che sfumava finalmente nel grigio quando si poteva tornare a casa, stremati di noia e di angoscia per i compiti delle vacanze ancora da fare. Per quanto riguarda l'idea delle differenze tra maschi e femmine, ce ne volle perché in quell'anticamera da seminario potessi farmene un'immagine precisa. Nell'incertezza dell'età, per salvarci dalle insidie sottili dei preti, dal rischio dell'asservimento nell'harem dei chirichetti, ci concentravamo su un unico lembo di salvezza onirica, la moglie del barista dell'oratorio, che aveva tette enormi e una faccia molto provocante. Metteva maglioncini sintetici attillatissimi e pelosi di lanugine azzurrina. Anzi, penso ne avesse uno che indossava per mesi e mesi senza mai cambiarsi, come fosse una divisa. Ai rari treni della giovinezza, oltre a quelli quasi inesistenti del tempo della scuola, ricordo quelli del tempo del militare. Chi ancora ha fatto il militare è già molto vecchio, sono tanti anni che non esiste più la naja. E già gli ultimi anni della naja erano più le persone che riuscivano a scamparla, piuttosto che quelli come me che l'hanno fatta. La tradotta dei militari è quando ti portavano dal car al battaglione a cui eri assegnato. Si partiva tutti in divisa, si partiva con lo zaino e con il sacco fatto a cubo, quello con le stecchette dentro, e bisognava stare fermi, immobili, in uno scompartimento di quelli antichi, ancora fatti di legno. Beh, entrambi questi ricordi di treno giovanile sono riassunti dal racconto di un viaggiatore, che è un ragazzo, che si ricorda ancora di quando festeggiò la sua festa di maturità andando in treno a fare un viaggio, e fu un viaggio molto avventuroso. Ero ragazzo, avevo 18 anni, quindi ero teenager. Lo studente. Eh sì, avevo praticamente finito gli esami di quinto liceo e avevo avuto l'opportunità, al termine di questi esami, di trovare un lavoro come animatore in un villaggio turistico. E quindi, sai, uno pensa, sì, tutta vita. Lo faccio adesso, sì, o non lo faccio più, poi sai, 18 anni. E dove andavi a animare? In che villaggio? In un villaggio turistico a Tropea, in Calabria. Sì, ma girava questa leggenda metropolitana che poi gli animatori in realtà erano persone che venivano chieste dalle villeggianti prestazioni extra oltre l'animazione, per quello andavi? Devo dire che col senno di voi sicuramente non posso smentire. Era così? Effettivamente poi testai che era così in effetti, perché era un po' quello che mi aspettavo e quello che sentivo dire da tutti. Quindi un viaggio d'andata pieno di speranze. E la speranza inizia in realtà già sul treno, cioè se il buongiorno si vede dal mattino è proprio questo il caso, perché mentre stavo in treno mi ricordo conobbi un militare, un ragazzo con cui cominciammo a parlare, e all'epoca si fumava tra una carrozza e l'altra. Quindi erano ancora gli anni in cui c'era il servizio militare e si fumava in treno. Esattamente. E stavamo tra una carrozza e l'altra a fumare, se non che il treno si fermò a Sapri e salì questo bel pezzo di signorina e sai, si fermò a parlare con noi e quindi iniziò una sorta di... E anche lei andava a Tropea? Lei no, non, in realtà credo che scendesse anche più giù di Tropea, però questo è un dettaglio che non mi ricordo. Comunque era una giovane calabrese che si muoveva. Esatto, e quindi noi eravamo un po' come due leoni che avvistavano la leonessa, e quindi... Due belve assatanate. Decisamente sì. Il militare in particolare, lui era in divisa, era ancora andare... Lui era in divisa, quindi lui era in divisa. Ancora gli anni della sfiga in cui era obbligatorio andare in libera uscita in divisa. Esattamente, però io devo dire la verità, senza, sai, presunzione o altro, che lei già dall'inizio si vedeva che propendeva un po' di più verso di me, però beh, secondo me non gli dispiaceva neanche lui, insomma. Rivochiamo i tempi, ai militari non si accostava nessuno, la stigma di sfiga totale era andare in libera uscita in divisa, tutti sapevano che era un militare, assatanato come un usignolo e allo stesso tempo sfigato che è lontano da casa, senza soldi, senza possibilità di portarti in un posto decente, insomma era una cosa un po' triste. Decisamente sì. Quindi militare, diciamo, aveva meno chance. Però Probabilmente sì, almeno da come io ricordo te. Quindi c'era già nell'aria che qualcosa poteva accadere in quel treno. Si è capito? Si è capito l'idea subito. Era quella, però poi sai, tra il dire e il fare, chiaramente bisognava poi vedere come si mettevano c'era le cose. C'era sempre uno di troppo, quello è il problema. C'era sempre uno di troppo, per quanto insomma magari sai, con la libertà e la spensieratezza giovanile poteva anche non essere un problema. Eh sì, adesso ne esageriamo. Nei sogni più improbabili. Senti, chi è che ha mollato per primo, che ha ceduto il passo? In realtà lui, perché il punto è proprio questo, che lui sarebbe sceso di lì a poco, una decina di minuti dopo, in una fermata. Quindi, quindi è obbligato, vedi la sfiga del militare, poveretto, doveva tornare in caserma magari. E mi fece una mezza, ricordo una mezza battuta, dicevo mi raccomando, tieni alta la bandiera, insomma, sì, qualcosa del genere. Tipiche da caserma, diciamo. Tipiche. Sì. Tieni alto l'onore e la bandiera. Sì, vabbè. E quindi com'è successo? La bandiera poi che è successo? E quindi dopo è successo che io e questa ragazza, sai, abbiamo finito di fumare la sigaretta, ci siamo andati a mettere nella cuccetta. In che ora era? Ah, era ora notturna, quindi viaggio in cuccetta. Era sera. Ah, beh, non l'hai detto, l'ambiente era quanto mai propizio. Decisamente sì. Quindi viaggiavate in cuccetta? Sì, sì. Stranamente le cuccette vuote, di solito ci sono sei persone in cuccetta. Incredibilmente invece questa è una botta di fortuna. Infatti sono tutta una serie di coincidenze che messe insieme rendono la cosa quasi, sai, quasi impossibile, ma in realtà sembra poi che il caso ti abbia favorito, ecco. Decisamente, in quel giorno ero veramente. Quindi vi siete accomodati in cuccetta? E diciamo abbiamo consumato, mettiamola così. È stato un approccio difficoltoso oppure diciamo era già nell'aria quindi non c'era problema? Era già nell'aria, quindi è stato praticamente naturale. Vabbè, bello, no? Era un momento condiviso, piacevole per tutti e due, senza nessuna forzatura, in fondo eravate un viaggio spensierato. Non è detto che per tutti e due, alla fine, nella stazione d'arrivo, deve essere tutto dimenticato e gli amici come prima. Sì, poi il bello è che questa cosa proprio finì così, un po' come era nata, nel senso che senza noiosi strascichi sentimentali. Esattamente, cioè si concluse lì, ma senza, come hai detto bene, non c'era un, sai, non c'era niente di forzato, è stato tutto naturale. E tutto è finito così, ci siamo salutati. Ma lei non ti ha detto ci sentiamo, mi chiami, ci vediamo? No, e beh, neanche io. Una grande, poi, diciamo. Ricordo che non ci, probabilmente, ma questo non lo ricordo esattamente, probabilmente non ci sarebbe stato modo perché lei stava da una parte, io andavo lì solo. Forse era impegnata anche lei, aveva un marito, un fidanzato, non so, qualcosa. Adesso che ci ripenso, mi è venuto in mente, allora, mentre io mi ero lasciato da poco, proprio perché partivo per questa cosa, è la mia, diciamo, ex ragazzetta dell'epoca, aveva detto tu o resti con me qua oppure se parti e vai lì a me non sta bene e quindi ti lascio. E vabbè, quindi sei tagliata fuori dalla tua vita automaticamente. Automaticamente, perché è chiaro che io sapevo che quell'esperienza avrei potuto farla a 18 anni. Quindi è venuta l'idea che magari per te era il chiodo scacciachiodo e per lei era, non so, un diversivo a una vita, sì, più monotona. Probabilmente. Mi ricordo che effettivamente lei aveva un compagno, un ragazzo, qualcosa del genere, però i dettagli sono oramai... C'è sempre un compagno che aspetta ad ogni stazione quando una donna viaggia, quindi è normale. Decisamente, magari chissà che non stava proprio lì ad aspettarla. Vabbè, l'aveva trovata molto espansiva e molto bisognosa di recuperare il rapporto con lui. Sicuramente più allegra, direi, di quando l'aveva lasciata. Ha iniziato il tirocinio da animatore già nella cuccetta, quindi. E questa era la cosa simpatica, che in effetti, come dicevo prima, se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che questo è veramente un, come dire, e quindi tu vorresti la voglia di raccontare il viaggio del ritorno, ma io devo scendere, mi fermo qui, mi basta, se no, diciamo, scatenerei invidie troppo cocenti o perplessità e dubbi troppo laceranti nei miei ascoltatori. Ciao, buon però viaggio. Visto mai che non ci rincontreremo un giorno su un treno e ti racconterò anche il viaggio di ritorno. Sì, spero di essere da solo quel giorno. Ciao. ciao, arrivederci. Ho detto al ragazzo che scendeva, spero di essere da solo. Ma non sarò mai da solo in treno. È raro stare solo in treno. Capita qualche volta, in quelle ultime corse di notte, quando nessuno più prende il treno, in quei giorni in cui è difficile che si viaggi. Stare in treno da soli è come entrare in un sogno, come entrare in un incubo. Il treno che porta una persona sola sembra che la porti verso l'ultima tappa del proprio destino. ma a me porta soltanto verso una prossima puntata del Treno Va. Viens